Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Questa era la bellissima canzone di Zucchero, Balla Morena. Eh sì, infatti invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a ballare un poco, a divertirsi un poco e a svegliarsi appunto con l'occasione. Ma ricordando i nostri numeri di telefono, perché potete anche interagire con me, potete inviare la vostra, potete appunto richiedere la vostra musica preferita, quella che volete ascoltare questa mattina qui in radio, e potete inviare un sms appunto al 335 56 37 251, o telefonare allo 0921 92 32 92, oppure potete anche richiedere la vostra musica e anche seguirci in streaming al sito www.crmhappyradio.it, o ancora potete diventare fan della nostra pagina Facebook, quindi cercando CRM Happy Radio e cliccando sul bottone mi piace, così sarete aggiornati sulla nostra programmazione, che quest'anno veramente è molto ricca di programmi, ma soprattutto di musica, la musica di CRM Happy Radio, che è sempre, quindi, che si può sentire ma anche vedere. E però Naturalmente vi ricordate che io nel mio programma naturalmente sono molto a favore delle donne, naturalmente, quindi parlo a favore di questa bellissima categoria. E quindi ora, parlando di questo, volevo introdurre questo articolo, che comunque più che un articolo è un sondaggio, ossia se è vero che le donne al volante sono un pericolo costante. Ecco, molti uomini che magari mi stanno ascoltando diranno sì, è bene, e anche perché per parcheggiare magari una semplice smart le serve lo spazio prima occupato da un tir con rimorchio. Per lo più sono di questo parere i nostri uomini, ma è davvero così? Non si sa, almeno da un sondaggio realizzato dal Centro Studi e Documentazione Directline, la più grande compagnia di assicurazioni online, fotografa i pensieri e le convinzioni degli italiani sull'argomento e misura quanto sia ancora diffuso nel nostro paese il pregiudizio sulle donne alla guida, analizzando anche quali sono appunto le critiche più ricorrenti rivolte alle guidatrici. Appunto, c'è al primo posto: non sanno parcheggiare, quindi ci dicono che non sanno parcheggiare, però secondo me non è tanto vero. E anche perché, pensandoci bene, ci sono anche dei piloti che sono appunto donne, che sono messe lì appunto a gareggiare insieme agli uomini e fanno la loro bellissima figura. Poi abbiamo: non fanno manutenzione alla macchina, e questo mi ritrovo un po' io, perché non sto attenta talmente tanto ai rumori, o meno non so neanche come si chiamano le varie parti della macchina, però va bene, l'importante è che si guida. Poi al terzo posto: sono insicure alla guida. Poi al quarto posto: sono distratte, anche perché dicono che lo specchietto retrovisore, anziché usarlo per come si dovrebbe usare appunto per parcheggiare, per lo più invece si usa per truccarsi. Poi al quinto posto: vanno troppo piano. Ma questa qua non sono tanto d'accordo, anche perché le donne sanno andare abbastanza veloci, soprattutto quando hanno fretta. Poi chiacchierano e causano code. Poi al settimo posto, della top 10 delle critiche più diffuse, c'è: frenano troppo bruscamente, anche perché quando si hanno i tacchi magari capita. Poi all'ottavo posto: occupano sempre la corsia centrale in autostrada, questo è un po' da vedere. E poi al nono posto: non sanno cambiare le marce e non mettono le frecce, quindi questo è anche un altro dato. Questo appunto risulta al decimo posto della top 10 delle critiche più diffuse. Però le donne dicono che tutto questo non è vero, anzi ci sono appunto gli uomini che fanno peggio di loro. Il dubbio rimane, però non bisogna tanto rimanere sui pregiudizi, ma guardare le cose come veramente sono in realtà. E adesso i Bastiglia con Pompei. Close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? We were caught up and lost in all of our vices. Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Where do we begin?

in questo programma, in questo angolino che dura 2 ore in compagnia appunto delle notizie anche più curiose e divertenti. E questa appunto ha tanta di curiosità, infatti parliamo sempre del rapporto tra la nostra grafia e il nostro carattere, ed ecco come scoprire gli uomini, le persone diffidenti attraverso la nostra grafia, il modo come scriviamo anche una semplice frase, una semplice parola. E infatti, se si prova a scrivere una parola, come dice la nostra esperta Candida Livantino, e appunto si segue un movimento antiorario e le lettere finiscono per formare una sorta di gomitolo, vuol dire che avete il segno accartocciata. E cosa vuol dire? Appunto vuol dire che volete difendervi da fattori esterni, tutelare assolutamente la vostra sfera privata. Siete diffidenti, non amate la novità e non avete una grande apertura mentale. Anche nell'affettività siete diffidenti, fate fatica a lasciarvi andare perché avete paura di soffrire. Una sofferenza che probabilmente avete vissuto nel passato e che non volete riprovare. Se troviamo questo segno nella scrittura di un adolescente, significa che desidera rimanere ancora legato alla famiglia, che per lui rappresenta un guscio che lo protegge dal mondo esterno. Se invece lo troviamo nella scrittura di una persona anziana, significa che desidera protezione ed affetto da parte dei familiari. Vedete un po' quanto cose si possono scoprire da una semplice parola scritta in questa maniera accartocciata, quindi dove, ripeto appunto, scrivete in maniera antiorario e le lettere finiscono per formare una sorta di gomitolo, quindi si accartocciano una tra di loro, quindi una scrittura molto molto diffusa, almeno da quello che si può vedere, e quindi magari molti dai traumi del passato e anche magari dello stress della giornata appunto sono diffidenti nei confronti un po' di tutto ciò che c'è fuori all'esterno di loro. Ma noi continuiamo con la bellissima musica, la musica di CRM Happy Radio all'interno di CRM Happy Wake Up, qui con voi ancora Patrizia Curreri fino alle 11. E adesso Naughty Boy con La La La La La, cantiamo tutti insieme. Spit your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find no silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a king. When our worlds collide, I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a king. When your words mean nothing, I go la la. Yeah. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Da mille valanghe ho smarrito la felicità, la cerco combattendo, fuggo da questa città perché non possa guardarmi, perché non possa fotografare la condizione del mio cuore che ora danza lento e immobile tra gli scogli dei ricordi, che ora è qui deriso e stanco tra il ricordo e l'illusione di ciò che era puro amore. Questa notte è nostra, corri forte angelo mio, come fosse l'ultimo motivo per sogni e ti ho tatuato sul mio cuore, dando fede anche agli sbagli. Lascio solo a te l'amore mio di cavaliere errante e cammino allontanandomi da noi anche se grande il dolore che mi invade, ma di cui non te. Consegnata a te e solo a te e rimane tua. Questa notte è nostra, corri forte angelo mio, come fosse l'ultimo motivo per rimanere vivo e se sarà amore, trattalo come un segreto, come ricevuto come me e te. Pur amore mio, forse vinto e sto morendo, ma sarà il nome di tutta una vita, spese margini di un sogno, per la musica, la gente che curò le mie ferite. E quella gente, quella musica, mi indicarono il futuro e fu soltanto amore blu. Questa è la bella canzone di Alessandra Amoroso, Amore Puro, e appunto perché anche dalla, tra la musica allegra, tra la musica appunto che ci fa svegliare, ci fa ballare, comunque l'amore deve entrare sempre nelle nostre case e che ci sveglia dovutamente, quindi questo è appunto l'ultimo successo di questa grande cantante, questa bellissima voce che comunque al di là delle parole comunque veramente esprime tanto, tanto, tanto amore e soprattutto l'amore per i propri, per i suoi fan. Infatti attraverso i social network Alessandra Amoroso ha dato appuntamento a Roma a tutti i suoi fan in occasione dell'uscita del nuovo album, appunto Amore Puro, una festa evento prima del grande tour che sta preparando e che toccherà Milano il 3 dicembre e Roma il 5 dicembre.

tried to shut us down. I'll be damned if we gon' let them take back the night. Alright, take back the night. You know you gon' mess around and find out there ain't no one better. Take back the night. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long. Where only fools go. I shook the angel in you. I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Questo era John Newman, Love Me Again, CRM Happy Wake Up. Appunto, diamo una spolverata un po' ai tormentoni di quest'estate, appunto l'estate che si fa sentire, no, perché oggi il tempo è un po' instabile, non si sa se c'è caldo, c'è freddo, il naturalmente è nuvoloso, non c'è il sole, però poi c'è un po' di caldo che quindi ti permette ancora di stare a maniche corte, comunque ancora in abbigliamento estivo. E ricordando l'estate, e oppure pensando all'estate, vi invito ad andare a Londra. Ebbene sì, non pensate che Patrizia è un po' impazzita ora ritornando dall'estate, no, perché a Londra si sa è il tempo ancora peggio di qui. Però vi invito al Parco Divertimenti di Londra, che è una nuova attrazione, uno spazio dove, pensate, piovono fiocchi di gelato. È posta all'ombra delle montagne russe di Thorpe Park, la curiosa attrazione è stata ideata da Miss Cakehead, un'artista pasticcere nota per aver creato un albergo dall'arredamento interamente commestibile, che è stato aperto per un solo giorno a inizio 2013. La neve di gelato è stata ideata per celebrare ironicamente il clima appunto inglese delle piogge frequenti improvvise, ma che per

CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. In a dark room, we fight, make up for our love. I've been thinking, thinking about you, about us. And we're moving slow, our hearts beat so fast. I've been dreaming, dreaming about you, about us. To the pain in your eyes, I've been feeling, feeling for you, my love. And our bodies are tied, our shadows will dance. I've been aching, aching for you. Questa è una giungla, ma è Dizzy Jungle con Wack Mohamma, Luisa, CRM, Happy Wake Up, appunto per creare questa atmosfera groove e per un po' comunicarvi le novità del nuovo anno accademico 2013-2014. Ebbene sì, come ho detto, oggi è il primo giorno di scuola qui in Sicilia, almeno perché già Nord Italia, comunque parte dell'Italia, già hanno iniziato, già i ragazzi sono già più di una settimana tra i banchi di scuola, ma qua soprattutto a Cefalù, appunto perché c'è più una realtà più vicina, appunto i nostri ragazzi stanno iniziando, meglio quasi stanno finendo, perché si sa che il primo giorno dura, che la lezione durano 3 ore circa, quindi se non usciranno verso le 11 per alleggerire un po' l'inizio di quest'anno accademico, e quindi ancora in bocca al lupo a tutti i ragazzi. Però cambia qualcosa, almeno quest'anno accademico sarà ricordato per l'originalità di nuovi corsi di laurea presso le università italiane. Infatti il mondo cambia, il mercato del lavoro e anche le università cercano un po' di stargli dietro. Infatti per questo nasce nell'Università Ca' Foscari di Venezia il Master in Yoga. Ad esempio, permette di specializzarsi in uno dei più inattesi fenomeni di massa del XXI secolo e ha come target i neolaureati in materie indologiche, filosofiche, storico-religiose. Il corso di laurea poi in scienze dell'allevamento, igiene e benessere del cane e il gatto della facoltà di veterinaria dell'Università di Bari invece si propone di formare figure professionali in grado di prendersi cura in modo sempre più sofisticato dei nostri amici animali. Ma non è finita qui, perché chi ha il pollice verde ed è convinto di averlo, la facoltà di agraria dell'Università di Perugia permette di specializzarsi in verde ornamentale, ricreativo e protettivo, mentre il Politecnico di Torino propone scienze e culture delle Alpi. E i più antichi atenei italiani non sono da meno, se Bologna lo scorso anno appunto proponeva scienze di internet, l'Università di Pisa ha attivato l'informatica umanistica incentrata su studi linguistici, filosofici, filologici e letterari o storici o filosofici nel campo del patrimonio culturale, delle arti, musica e spettacolo, delle scienze della comunicazione e della formazione, quindi un po' di tutto. Però abbiamo anche altri corsi di laurea, per esempio nell'Università di Aristan in Sardegna c'è la scienza della felicità e poi la teoria tecnica di salvezza dell'umanità, che anche se non ha un valore legale, e chi si iscrive lo fa perché è interessato alle materie, quindi viva la sincerità e viva appunto questi corsi di laurea variegati ma interessanti per le nuove prospettive lavorative che si stanno aprendo appunto nel ventunesimo secolo, e quindi danno la possibilità a molti ragazzi o a ragazzi ma anche adulti di magari di studiare materie alternative, materie che appunto magari possono permettere di trovare un lavoro ora come ora nella situazione attuale. Mi interesserebbe molto il master di yoga. E voi ce lo potete comunicare mandando un sms a 335-56-372-251. I've had enough. I see it all. I see. torniamo qua. Avevo perso un po' la cognizione del tempo. Comunque questa era Katy Perry con Roe. Si sa, si ritorna dalle vacanze un po' più stanco, più stanchi di come si è iniziata, come sono iniziate le ferie, si sa. E quindi, rimanendo in tema un po' della giungla, appunto ho riproposto Katy Perry con il suo ruggito, con il suo nuovo singolo, ed è carino appunto il video, che è il secondo video che ha proposto, appunto, dove si vede lei un po' nelle vesti di Tarzan, che è un po' a maestra, un po' a destra, un po' tutti gli animali della giungla. Ma ricordo il primo video appunto della nostra cantante Katy Perry, che invece è un po' cantava con i simboli appunto che troviamo ora sulla nuova applicazione WhatsApp, e quindi con lo smartphone, e appunto faceva un po' la traduzione un po' con i simboli della sua canzone. E infatti ci sono tanti tipi adesso appunto di modi di comunicare. Adesso c'è questo WhatsApp, come tante altre applicazioni, per comunicare semplicemente e velocemente con i propri amici. E appunto, ma lo smartphone è un oggetto che mai fa parte di noi, non sappiamo dove più metterlo, dove per starci più vicino a noi, ma lo addobbiamo in maniera talmente varia e talmente variegata che veramente diventa parte di noi. Ed arriva appunto l'ultimo gadget dal Giappone, che riesce comunque a stupire. Si tratta delle mutande per smartphone, appunto può essere anche il nostro migliore amico, e per tale appunto come un animaletto possiamo addobbarlo anche con indumenti. E appunto arrivano queste mutandine carine da indossare al telefono. Lo scopo, oltre chiaramente a stupire amici e conoscenti con l'ennesima stranezza, è anche quello di proteggere i connettori che normalmente si trovano sulla parte inferiore del telefono. Quindi le mutande per smartphone sono prodotte da Bandai, uno dei principali prodotti di giocattoli del Giappone. Quindi c'è anche un intento tecnico, appunto quello di proteggere dalla polvere appunto i vari connettori. Bene, sì, dai, troviamo anche questa, quindi l'utile, uniamo l'utile e il divettevole. Ma adesso arriva il grande, grandissimo Vasco Rossi con Ti prendo e ti porto via. Ma poi ritornate qua con CRM Happy Wake Up. Sai, ti conosco oramai, ho capito chi sei, non ti importa di niente. Tu dimentichi tutto senza alcun rispetto, e neanche per noi. Chiedi amore così come a chiedere di buttarsi nel cesso. Tanto tu non lo sai quello che vuoi. Cosa di te, ti guardi intorno se c'è una vestita uguale. E che sedurre per te è più importante che respirare. Starti vicino sì, a volte capita di sentirsi un po' in forse. Ma tu li baci tutti e lasci tutto com'è. Ti conosco oramai, ho capito chi sei, non ti importa di niente. Tu te li baci tutti e lasci tutto com'è. Ma dove vai, tanto oramai sei via. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Everybody get up. Volta entro perfettamente alla fine della, di questa bellissima canzone di Robin Thicke, Blurred Lines, che ci ha riempito le nostre giornate estive, appunto perché è uno dei brani più venduti insieme a Daft Punk, Get Lucky, di quest'estate, uno dei tormentoni molto leggeri, molto soft, ma che ti trasportano e ho influenzato anche mia mamma con questa canzone. Ebbene, quindi abbiamo parlato dell'estate, dei nostri tormentoni un po' che stiamo rispolverando in questa mattina del 16 settembre 2013. È una giornata un po' particolare, soprattutto per i ragazzi appunto che iniziano iniziano la scuola, ma c'è anche chi è rientrato dalle vacanze o chi invece sta progettando le vacanze estive ancora a settembre, perché magari piace meno confusione e anche una temperatura più meno fresca. E infatti adesso anche il web ci propone un decalogo antistress per chi invece appunto sta iniziando la routine tutti i giorni, quindi ha finito da poco la vacanza, e chi appunto sta iniziando la scuola e così via, che appunto naturalmente delineano un momento di stress, e quindi si cerca un po' di attutire questo stress dovuto al rientro, come si suol dire, lo stress dal rientro. E infatti al primo posto consigliano di dormire a lungo e bene, evitando di passare dalle 8-10 ore di sonno del periodo vacanziero alle 6-7 che ci si concede al rientro. Se si soffre di insonnia ci si può abituare con un bagno caldo la sera e con una tisana, che io preferisco. Abituarsi con gradualità ai ritmi e al clima cittadino, evitando se possibile di immergersi immediatamente nel vortice del lavoro. Poi al terzo posto fare movimento, soprattutto se le vacanze sono state attive. L'attività fisica infatti aiuta a diminuire lo stress e a riposare meglio. Al quarto posto appunto si consiglia di seguire un'alimentazione corretta. Il cervello ha bisogno di zucchero, perciò ben vengano, senza esagerare, i carboidrati semplici e quelli complessi. La melatonina contenuta nella buccia dei chicchi d'uva ad esempio può essere un valido aiuto all'umore. Poi al sesto posto esporsi, al quinto posto esporsi il più possibile alla luce solare. Il passaggio dal sole della spiaggia alla luce artificiale dell'ufficio contribuisce a mettere sotto stress il corpo e la mente, se possibile quindi trascorrere la pausa pranzo all'aria aperta. Poi al sesto posto bisogna essere ottimisti, quello che proponiamo sempre. Concentrarsi su pensieri positivi aiuta a ritagliarsi gli spazi di riflessione e contribuisce a spostare l'attenzione su quello che desideriamo e sulle nostre capacità. Appunto nel decalogo antistress al settimo posto vi consiglio che durante il lavoro prendersi delle pause frequenti. Per chi lavora al computer servono almeno 15 minuti ogni 2 ore per riattivare la circolazione, riposare e gli occhi, pensate un po'. Poi all'ottavo posto niente tecnologia a letto, quindi quando si va a dormire niente smartphone, niente computer né televisione, perché il cervello deve associare la camera da letto al momento del sonno e non percepirla come un prolungamento del salotto. Al nono posto la gradualità anche per i piccoli, infatti per il ritorno a scuola, come vi ho detto poc'anzi, dopo 3 mesi di vacanze il bambino deve avere il tempo di abituarsi alle lunghe ore che trascorrerà seduto. Infine nel decalogo antistress consigliano di concedersi un weekend di relax, finché il tempo lo consente, dedicare appunto il fine settimana al relax e alla famiglia, come se le vacanze non fossero ancora finite, per ricaricarsi e iniziare al meglio la nuova settimana. Quindi un po' prendere un po' in giro il nostro cervello dicendo bene bene, anche se abbiamo iniziato il lavoro comunque a fine settimana l'abbiamo libero e possiamo concederci ancora un bel po' di vacanza insieme alla famiglia. Questo un po' sono dei consigli che provengono dal web, poi vedete voi, ognuno autonomamente sa quello che deve fare per rendersi attivo anche in questa ripresa. Sorridi provocandomi, con gli occhi mi incateni qui, mi lasci andare tanto sai che puoi riprendermi. You're drowning in the deep for me. I love the way I'm drawn to you. Just like oceans rise to kiss the moon, it's gravity. Prendimi, mani come nodi stringono noi che attraversiamo sabbie mobili. Bring me back to life when you light my fire. Makes me feel so high, never coming down. It's more than just a fantasy come true. I feel your love rising from deep inside of me, up to ecstasy. L'estasi you're the sospiro appeso a un brivido qui, che così intenso dal profondo sale su fino all'estasi. You're drowning in the deep for me. Don't fight it, just let it be. Fino all'estasi. Now your desire is pulling me. Our love is like gravity. It's gravity, baby. Tu che mi dai vita completamente, calmami di corpo, pretendimi. Take control and show me how it feels to go from heaven up to ecstasy. Sento ogni battito del tuo cuore stringere i miei sensi immobili. It's more than just a fantasy come true. I feel love rising from deep inside of me, up to ecstasy. Fino all'estasi, up to ecstasy. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Questo era Jetty Rax, I See You, e se ne vedono tante per adesso di funghi. È appunto il periodo ideale per andare a cercare un po' i funghi in giro. Ebbene sì, anche i funghi sono degli alleati del nostro fabbisogno energetico, comunque di vitaminico. E infatti come gli champignon, che sono alleati delle ossa. Infatti 3 o 4 funghi, pratajoli o champignon al giorno possono produrre una quantità sufficiente di vitamina D. Basta esporli per 2 ore anche su un piatto esposto al sole estivo, e la durata della tintarella dei funghi deve aumentare in inverno. Infatti si caricano di vitamina D E poi, per lasciandole un paio d'ore all'ombra, si dà il tempo per completare la reazione chimica, il tutto senza alterare il loro sapore. Quindi vedete un po' anche i funghi nella loro proprietà, non solo appunto i funghi champignon, che per specifico sono alleati delle ossa, ma anche altri funghi che per adesso abbondano sulle nostre tavole. E sta per finire il nostro programma, però ancora abbiamo ancora musica e la nostra pubblicità, che come sempre fa girare un po' tutto, quindi è il business, è quello che fa girare appunto come anche nelle televisioni vediamo sempre appunto pubblicità, e anche qui in radio appunto per mantenerci abbiamo la nostra pubblicità, quindi state ancora in ascolto con noi e poi ci ritroviamo dopo per i saluti finali. Adesso arriva l'altro tormentone estivo, carico di musica, di divertimento e di allegria, ancora per svegliarci questa mattina di lunedì 16 settembre 2013, sempre con me, con Patrizia Curreri a CRM Happy Wake Up. Adesso Daft Punk, Get Lucky. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Mm-hmm.